più che criticare, che fare dialettica come è normale appunto in una realtà civile e così via, ci sono, no, usa termini diversi dalla dialettica. Si chiede, per esempio, se la CISL è un sindacato, se la UIL è un sindacato, si chiede se non abbiamo perso autonomia rispetto al governo, si chiede se non abbiamo perso autonomia rispetto a Marchionne, agli imprenditori, si chiede se questi atti non infrangono la Costituzione, si chiede se questi atti non seppelliscono i diritti. Beh, questa escalation ha incubato tanto di quell'odio nei confronti dell'organizzazione e delle persone, che poi menti deboli o, facinorosi, peraltro quelle di ieri non sono altro che coloro che in ogni occasione di surriscaldamento dell'ambiente sociale e politico si scatenano, fanno quello che per statuto fanno. Senta, però la violenza, certo, solo la violenza, segretario, solo quadracce. La domanda che si fanno molti anche oggi sui giornali è un accostamento possibile con il rischio del ritorno degli anni 70. Lei si azzarderebbe a questo paragone oppure no? No, perché intanto non c'è nessun collegamento con i posti di lavoro, perché i lavoratori hanno altro, giustamente per la testa, che appunto persone, ragazzi, che pensano solo a atti dimostrativi di violenza collegati con la multimedialità, che si muovono in questo modo perché la loro vocazione è questa, è come gli ultra che vanno allo stadio non per vedere la partita, vanno allo stadio approfittando di quel clima che c'è per fare atti di violenza. Questa è la verità vera. Il problema che mi preoccupa quindi non è tanto una decina di persone, perché questi gruppi sono tutti di fatti di 10-20 persone al massimo che appunto fanno questo. Mi preoccupa, ecco la ipocrisia e anche la vigliaccheria, mi preoccupa tutta l'incubazione che si fa e poi le lacrime di coccodrillo. È una storia che si ripete, insomma, la voglio dire chiaro e tondo, sono sempre gli stessi ambienti culturali che producono questo clima verbale. Però ne ha fatto cenno due volte, che ci faccia capire di più, che vuol dire questi ambienti culturali? Dice non ci farà i nomi, ma ci faccia capire a chi si riferisce, non so. Coloro che sostengono che un accordo come quello di Pomigliano, che le forze politiche tutte dovrebbero chiederci, perché in un paese che ha la crisi economica che ha, in un paese che vede molte aziende delocalizzarsi in altri posti, un paese che ha mille guai e così via, che ha disoccupati a non finire e crescono, le forze politiche tutte, ancora di più quelle riformatrici, dovrebbero chiedere al sindacato. Insomma, chi critica questi accordi? Quindi la FIOM, per esempio, che critica questi accordi. Lei ne sa più di me, perché lei registra ogni giorno, da notaio dell'informazione, registra giorno per giorno le posizioni. Senta, però, parlo a chi ha buone orecchie per intendere. Epifani però ha detto che spellerà se qualche sindacalista è coinvolto in queste azioni, verrà espulso dalla CGIL. E questa è una buona notizia, però a Epifani dico questo, e lo ringrazio per queste parole chiare, però Epifani, gli dico di tornare indietro con la mia viola, e quando nelle sue manifestazioni vede cartelli con invettive, calunnie e parole pesanti, accuse pesanti nei confronti degli altri sindacati, dovrebbe invitare i suoi a togliere di mezzo questi cartelli. Voglio dire, insisto su questo, è il periodo di incubazione che mi fa preoccupare, perché non mi preoccupa quando chi fa solo questo, violenza, queste squadracce, si muove in quel modo. Ma mi preoccupa quando chi non ha questo modo di ragionare, o non dovrebbe averlo, chi ha delle responsabilità perché rappresenta milioni di lavoratori o milioni di elettori, mi preoccupo quando loro, per aiutarsi nelle loro difficoltà, usano un linguaggio e usano una dialettica inappropriata che istiga all'odio. Segretario, ha una preoccupazione che porta all'odio. Ho un'ultima domanda da farle. Lei, Rubina Fronte, quella ragazza che le ha lanciato il fumogeno, la incontrerebbe? Ma io all'inizio l'avrei incontrata. E perché ora no? E ora non credo che serva, perché mi è bisognato vedere l'altra settimana, appena potuto, è ritornata un'altra volta, perché si vede, vanno appresso a situazioni di esaltazione mediatica. Io non l'ho denunciata e non la denuncerò, non ho visto neanche una parola di considerazione o di riconsiderazione, almeno in parte. Addirittura lei e i suoi amici hanno rincarato la dose, loro sono giudici dall'alto delle loro rappresentanze, cioè di nessuno, e dall'alto della loro sconoscenza del lavoro, perché non conoscono il lavoro, addirittura vogliono dare lezioni a realtà che rappresentano milioni di persone. E questo dovrebbe far atterrire, non me, la stragrande maggioranza, perché se per degli italiani e di chi fa sociale e fa politica, perché se questo discorso dovesse alimentarsi, noi ritorneremmo alle squadracce degli anni venti, perché in nome della loro ragione minoritaria, a quel punto possono zittire e possono intimidire, possono colpire tutti coloro che la pensano diversamente. Auguri per molti che sono tolleranti e che reputano queste questioni ancora come bravate giovanili. Io, Raffaele Bonaldi, la ringrazio. Quando ci saranno questi attacchi, Radio 24, che è una radio libera, le concederà sempre il microfono. Buona giornata. Io spero che ci sarà sempre possibilità, magari in altre occasioni. Libertà e autonomia in una società moderna, tutti coloro appunto che hanno da esercitare forti rappresentanze. La ringrazio, Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Buona giornata ovviamente. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo. Il nostro sondaggio riguarda il doping nel mondo del ciclismo, ma nello sport, con il procuratore del CONI che ha detto è talmente diffuso che tanto varrebbe liberalizzarlo. Tra poco. 24 mattino. Alle 8:35 minuti, eccoci qui allora pronti per il nostro sondaggio a parlare di doping e mondo dello sport, del ciclismo. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Del ciclismo in particolare, se volete, nel senso che hanno fatto scalpore le parole del procuratore del CONI Torri in un'intervista alla Associated Press. Lo sfogo, certo, ora dice è stata più uno sfogo davvero amaro, dice tutti i ciclisti con cui ho avuto a che fare sono dopati, sono drogati, tanto varrebbe legalizzare, liberalizzare questo doping, se non che è un qualcosa di molto dannoso per la salute. Liberalizzare lo doping, siete d'accordo? Però state votando in molti, l'83% dite di no. Per il momento su Radio24.it ne vogliamo parlare con due ospiti, intanto un giornalista che ha raccontato in questi decenni tantissimi eventi sportivi, soprattutto legati al pugilato e al tennis, ma non solo. Rino Tommasi, che saluto, grazie Tommasi per essere buongiorno, con noi, buongiorno. Buongiorno. E voglio salutare una persona che è stato per anni medico del CONI, oggi fa parte della Commissione Vigilanza sul Doping al Ministero della Salute ed è anche consulente di molte procure e dell'Agenzia Mondiale contro il Doping, il professor Sandro Donati. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, a Rino Tommasi e a tutti gli ascoltatori. Allora, io partirei diciamo dall'aspetto, se si vuole, giornalistico, se vuole Tommasi anche un po' emozionale, emotivo, perché il professor Donati, poi sentiremo la sua idea, è uno di quelli che dice guardate che quando vedete la finale dei 100 metri delle Olimpiadi dovete sapere che tutte le persone, tutti gli atleti che sono arrivati lì perché sono aiutati in qualche modo dal doping, e se no non si arriva lì. Questo è già una posizione che insomma dovrebbe far cosa, Tommasi? Farci spegnere il televisore? È vera, perché a pane e acqua non va più nessuno. Questo è il discorso, e forse non è mai andato nessuno. Certo che naturalmente adesso siamo arrivati ad avere certezze o su certe irregolarità che probabilmente nello sport ci sono sempre state, e purtroppo molti mettono in relazione l'istinto di aiutarsi a vincere anche con l'aspetto economico, e invece non è del tutto vero, perché è nella natura dell'uomo, c'è gente che si aiuta, che si droga per vincere la gara del condominio, non per vincere le Olimpiadi. Questo è vero, purtroppo succede anche a livelli amatoriali, però come, Tommasi, come interpretare quello di Torri, uno sfogo di una persona che dice che dobbiamo fare, combattiamo ad armi impari? Allora, a me è successo 4 anni fa, durante una telecronaca di tennis con il mio amico Gianni Clerici, dove noi ci abbandoniamo spesso a delle divagazioni, magari abbandonando anche il il racconto di quello che sta succedendo. Ma che abbandonarvi? Ma sono poesie, Tommaso, adesso non mi faccia fare... Allora, io dissi una volta una frase del genere, che è poi in sintesi la conclusione cui è arrivato Torri. Il ciclismo mi appassionava ai tempi di Coppi e Bartali, oggi non mi piace più perché non ho certezze. E non dissi proprio sono tutti drogati, ma una cosa simile. Finita la telecronaca, il direttore, l'allora direttore della Gazzetta dello Sport, che purtroppo ci ha lasciato da poco, Pietro Calabrese, mi chiamò al telefono e mi disse: ricordati che sei anche un giornalista della Gazzetta dello Sport e noi siamo gli organizzatori del Giro d'Italia. Questo non mi impedisce di dire quello che penso. Purtroppo io, che ho un grande amore per i risultati, per le statistiche, sono in imbarazzo quando non so mai se quei risultati, se quei dati sono veri e sono giusti. Questo allora, professor Donati, è una posizione saggia quella di Rino Tommasi. Che dobbiamo pensare, chiedo anche a lei, dello sfogo del procuratore Torri e della proposta, che certo suona come una provocazione, tanto vale a questo punto liberalizzarlo il doping? Dunque, intanto mi consenta di dire che quella di Tommasi è una figura di giornalisti che si sta perdendo, perché questa chiarezza estrema, anche questa, come posso dire, questa utilizzazione della memoria per arrivare a delle conclusioni è veramente esemplare. Quello che ha detto Torri è sconcertante, perché da un procuratore aggiunto della Repubblica mi aspetterei delle considerazioni un po' più profonde. Intanto lui se ne accorge adesso. Vorrei ricordare che nel 1993 io feci un rapporto di 14 pagine che indirizzai al presidente del CONI e al segretario generale del CONI, con l'invito a rivolgersi proprio alla Procura della Repubblica, perché avevo raccolto prove evidenti di molti reati di doping, e in quel rapporto arrivavo alla conclusione che la diffusione nel ciclismo del doping era il 100%. Non 100%, 100%. Cioè ci sta dicendo che non si può fare il ciclista, ma professionista o amatoriale, senza essere aiutato. Guardi, questo è evidente, però io direi che bisogna andare al di là, altrimenti noi facciamo riferimento sempre e soltanto ai corridori. E il corridore è una figura fragile che oggi viene esaltato e domani, di fronte ad uno scandalo doping o a un problema, diventa un soggetto da scansare, magari che precipita nella depressione. Il problema è che bisognava focalizzare, e non è stato fatto, le responsabilità di quelli che io chiamo gli adulti significativi che sono intorno agli atleti, e sono medici, dirigenti, sponsor, manager. Ecco, queste figure hanno rappresentato la semina e la continuità. Cioè gli atleti sono delle generazioni che passano, invece questi soggetti corrotti hanno corrotto generazioni di atleti. Allora ecco, da un procuratore aggiunto mi sarei aspettato un'analisi su queste responsabilità a monte. Sì. Ed invece lì c'è, come dire... Era un'intervista, quindi magari si è lasciato andare a, come sì, dire, però, a un momento però di sconforto. Il procuratore aggiunto deve sapere che intanto il doping è un reato penale, quindi come fa a parlare di liberalizzazione? Poi significa che non conosce il mondo dello sport. Il mondo dello sport è un mondo che funziona ad informazioni vaghe, per sentito dire, per cui ogni atleta, ogni allenatore teme o pensa che l'altro usi chissà quanto di più, e quindi tutto questo genera, accompagnato diciamo a quella che è la tendenza tipica dell'attività sportiva a fare sempre meglio e di più, genera una escalation. Quindi come si fa a proporre un qualcosa che diciamo apre ogni strada, sì, in un ambiente che già ha queste tendenze? Tra l'altro la domanda che ci pongono molti, Tommasi, è se effettivamente è così diffuso, se è diffuso e diamo per assunto, perché i controlli non funzionano, funzionano in minimi termini, sono sempre relativamente pochi gli atleti che vengono pescati, perché non si vuole rompere un giocattolo che deve continuare, o perché? Ma io lo sfogo di Torri lo capisco, lui ha l'incarico di controllare che tutto avvenga nella legalità, chiamiamola legalità chimica, ecco, delle prestazioni, trovandosi di fronte ad una massa di denunce, di casi, che è sempre più difficile da controllare e da arginare, io capisco lo sconforto di chi dice io non ce la faccio a vincere questa guerra, perché purtroppo è una guerra che è difficile da vincere. Anche perché Lo sport non può permettersi, dal punto di vista organizzativo ed economico, di controllare tutti quelli che fanno attività sportiva, che sono milioni ogni giorno. Certo. E lo sport non può permettersi di controllare tutti. E allora naturalmente vengono fuori ogni tanto questi casi e fanno temere o pensare che dietro i casi dei grandi campioni ci sia una massa di atleti che pur di vincere fanno qualsiasi cosa. Mm. Però io, professor Donati, per esempio ci sono stati anche casi di atleti anche di primo piano nel passato. Io ricordo per esempio Francesco Moser nel ciclismo o Bode Miller nello sci, che hanno detto, forse anche loro come provocazione, ma sì, tanto vale liberalizzarlo a questo punto il doping. Lei, professor Donati, su questa posizione perché la trova assurda? Solo una questione di salute? Guardi, io intanto faccio una considerazione pratica. Il mondo dello sport ci tiene talmente tanto alla sua immagine etica, esteriore, che non accetterebbe mai una situazione di questo genere, perché sarebbe come ammettere pubblicamente che le gare non sono credibili, perché poi questa è la realtà. Ed invece il mondo dello sport cerca di salvaguardare questa realtà, pur sapendo che realmente non sono credibili, quindi non accetterebbe mai la liberalizzazione. Al di là di questo fatto, bisogna tenere conto che le analisi antidoping, pur essendo piuttosto fragili, piuttosto facili da aggirare, consentono perlomeno di porre un argine rispetto ad alcune sostanze grossolane e pericolose come gli anabolizzanti. È chiaro che se non ci fossero, gli atleti tornerebbero ad usare in maniera massiccia gli anabolizzanti, che sono veramente delle sostanze estremamente pericolose. Allora qui il problema è piuttosto complesso. Primo, il sistema sportivo ha fatto credere a tutti che il sistema antidoping fosse efficace e invece non lo è. È aggirabilissimo. Lei ricordava il fatto che io faccio da consulente per molte procure della Repubblica, quindi ho nella mente migliaia di pagine di intercettazione, e i discorsi dei medici, dei ciclisti, dei direttori sportivi ruotano tutti intorno ai tempi o ai dosaggi adatti. Cioè, come aggirare. Esattamente, questo è il punto. Quindi qui c'è una ipocrisia complessiva. È chiaro che accanto a questo antidoping che non funziona, che è fragile, bisognava porre un altro sistema, e questo sistema è tutto bello definito, è un monitoraggio dei parametri essenziali che attestano lo stato di salute. Le faccio un esempio: il livello di colesterolo. Sì. Ognuno di noi sa che se hai il colesterolo alto il medico ti suggerisce di fare dell'attività fisica. Quando ci troviamo di fronte a questi atleti che a 24 anni, 25 anni, 26 anni invece hanno un colesterolo che va sempre in aumento, c'è qualcosa molto strana. Ecco, allora mi dia un attimo, professore, devo fermarmi, devo dare le informazioni sul traffico, ma ripartiamo proprio da qui, sentiamo anche qualche ascoltatore tra un minuto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, tanto vale liberalizzare il doping per quanto è diffuso. Questa è la provocazione del procuratore Torri del CONI, uno che combatte il doping. Siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio. Sentiamo, ci ha chiamato qualche ascoltatore. Sentiamo Manlio da Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, credo che la provocazione di Torri debba riportare il nostro pensiero su due piani. E la risposta credo i suoi ospiti l'hanno già data. C'è un problema essenziale: lo sport da sempre è uno dei due pilastri essenziali del sistema formativo. Il mondo professionistico è quello che chiaramente è in grande vetrina, quindi vedono tutti, e diventa l'esempio per i giovani. Il drogato, il ragazzo che usa stupefacenti, non fa una lotta, una competizione in una gara sportiva, ma nella vita. Se noi diamo un esempio sbagliato, sicuramente abbiamo un problema. Quindi in un mercato sportivo, quindi in un'industria sportiva drogata, abbiamo veramente il problema di togliere la droga. Dobbiamo intervenire a questo punto con una riflessione dal mio punto di vista. Non giocare, come diceva benissimo il professor Donati, sì, sul tecnicismo di qual è la quantità. Ma dica, Mario. Ma sull'educazione allo sport come valore e come momento essenziale bisogna rinunciare. Per estremizzare, se per 2-3 anni, ma credo che, e parlo da ex sportivo e da persona che viveva nel mondo dello sport e che tutt'oggi si occupa di queste tematiche, se dobbiamo estremizzare vogliamo sospendere le gare e strappare i cartellini ai ragazzi, perché gli sportivi hanno strappiamo i cartellini. È un'altra provocazione, però è interessante, cioè azzerare tutto. Rino Tomasi spesso se ne è parlato, azzerare tutto, no? Azzerare le gare, azzerare. Azzerare mi fa paura ed è una resa inaccettabile, però è anche comprensibile che un argine ci deve essere, ma quando ci si accorge che questo argine non riesce ad arginare nulla, o che perlomeno le crepe attraverso le quali passano troppe irregolarità sono difficili da localizzare, da contabilizzare, in sostanza all'indomani di ogni Olimpiade assistiamo a una revisione degli ordini di arrivo. Certo. Ecco, io vorrei difendere la certezza di cosiddetto ordine d'arrivo, cioè del responso del campo, però mi accorgo che è sempre più difficile. A questo proposito, chi è che l'ha più delusa nella carriera? Cioè, non lo so, l'impresa che ha più raccontato, o nel pugilato o nel tennis magari è già diversa la situazione, che poi... No, nel tennis il problema è piccolo, insomma. È piccolo. Sì, McEnroe per fare una demi-volée aveva bisogno meno di doping e più di estro. Però effettivamente in alcuni sport... No, è chiaro che l'atletica e il ciclismo sono gli sport... diciamo più esposti a questo rischio, perché dove le fatiche naturalmente ci sono e vengono usate come alibi, questo è inaccettabile, cioè usare la fatica come alibi. Dicono molti, nel ciclismo ci sono certe tappe che se non ti aiuti non le puoi percorrere o che comunque non le puoi vincere. Sentiamo che ne pensa Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io direi che attualmente nello sport, come nella vita purtroppo, c'è una corsa a primeggiare in ogni campo e quindi si usa ogni mezzo, si usano mezzi leciti, mezzi illeciti, tanto più che nelle vittorie sportive specialmente ci sono dietro poi contratti di sponsorizzazione, montepremi molto rilevanti. Quindi... E quindi questo è lecito secondo lei, oppure ormai è così? No, assolutamente no. Però la cultura perversa che abbiamo oggigiorno, quella di primeggiare ad ogni costo, è importante a giocare sport. Ne fa un discorso quasi sociologico. Grazie Marco. Professor Donati, io vorrei partire da questo, abbiamo ancora due o tre minuti, chiederle, ma secondo lei un genitore che manda, visto che Rino Tomasi ci ha detto, ed è vero, è molto diffuso anche a livello amatoriale, qua parliamo dei grandi ciclisti, dei grandi atleti, ma a livello amatoriale di milioni di italiani è diffuso il doping, secondo lei un genitore che manda un figlio a fare uno sport accetta che questo figlio dodicenne, undicenne, di 10 anni venga dopato? Io non ci voglio credere, insomma. Però ci sono due facce del problema. Io le posso dire questo, che quando Conconi proponeva le emotrasfusioni o altre cose agli atleti di alto livello, non c'è stato un atleta, un allenatore o un genitore che si è opposto. E questo è un fatto che sconcerta. È però vero che a livello giovanile questa selezione, per arrivismo, per smania di primeggiare non c'è ancora stata. Ci troviamo di fronte ad un bacino d'utenza più variegato e ci sono molti genitori che sono estremamente attenti. Ora è vero quello che diceva l'ascoltatore, che purtroppo il cattivo esempio di questi atleti, che io in un libro dell'89 chiamai campioni senza valore, quindi ricordo che le analisi andavano fatte molti anni fa, quando i giornalisti invece si limitavano a celebrare, ad esaltare, e non capivano che c'erano dei risultati che erano solo apparenti, hanno fatto sì che nell'ambiente si diffondesse la corruzione, cioè significa che nelle federazioni, non soltanto italiane, ma anche degli altri paesi, sono emersi gli allenatori, i dirigenti più spregiudicati, più carrieristi. Ma quindi, professore, dovremmo, come, cioè, io seguendo questo discorso, veramente azzerare tutto? Rino Tomasi dice di no, però cioè così, se lo sport è truccato dalla A alla Z... Una soluzione, a mio modo di vedere, è parziale, cioè, e la soluzione è quella di creare una confederazione dello sport giovanile, dove i bambini fino ad una fascia adolescenziale possono praticare più sport, ed in questo modo smorzare la spinta di specializzazione iniziale, che è quella micidiale. A questo punto emergerebbero da un sistema educativo più complesso, più ricco di valori, che non quello finalizzato soltanto ad una prestazione in una specialità. Allora nessuno impedirebbe loro, poi se hanno talento, di indirizzarsi ad una specialità, ma evidentemente evidentemente avrebbero un sistema formativo diverso. Invece sono già nelle mani di allenatori che hanno la smania di primeggiare nel loro sport in giovanissima età. E quindi questo è lo sappiamo, Rino Tommasi, lo sappiamo anche nel tennis, no? A 5 anni, 6 anni ormai li mettono con la racchetta. E questo, secondo Donati, è un problema. Insomma, crea subito una voglia di performance esagerata. So, Tommasi, che ne pensi? L'alibi, che si vuol dire, è il professionismo e la voglia di guadagno. No, perché rivendico la mia affermazione: c'è gente che si droga per vincere la gara del condominio. Questa è purtroppo nella natura umana. E non si possono anche togliere dallo sport i valori delle prestazioni, perché il giorno in cui nessuno si appassiona più a qual è il record sui 100 metri è la fine dello sport e nessuno lo seguirà. Su questo sono d'accordo. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, Rino Tommasi e Sandro Donati. Grazie per questa, spero, interessante discussione sul doping, non solo nel ciclismo, nello sport, il doping anche nella vita, tutti noi. Ringrazio Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. Oggi c'è Gianfranco Fabi che conduce 9 in punto, lo vedo già pronto al di là del vetro, e a lui allora do la linea. Noi ci troviamo domattina, la nostra mail 24 mattino @radio24.it, domani alle 7:20.